Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Fai solo un po' di ginnastica per rafforzare i bicipiti, tonificare i deltoidi, inverno cosce e crudi. Andiamo a fare l'aerobica, balliamo a tempo di musica, facciamo volta per aerobica, tapirulan, step. Anche il nostro cervello ha bisogno di qualcosa di simile per mantenersi in forma. Sappiamo che il tempo non gli è amico, ma sappiamo anche, grazie ai recenti progressi delle neuroscienze, che è un organo plastico. Questo lo rende capace di superare quelli che sembrerebbero i limiti fisici. Occorre però allenarlo, ed è quello che faremo oggi. In studio con me il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Professore, chi ha tempo non aspetti tempo, quindi diamoci da fare, alleniamoci. Diamoci subito da fare, sì, perché la nostra mente va mantenuta in forma. Ma non è importante soltanto il fattore età, eh? Noi conosciamo molte persone che hanno un'età avanzata e bagnano il naso anche ai più giovani. Quindi, alla guerra come alla guerra, bisogna... Sì, basta mantenerla attiva. E io proporrei, se lei è d'accordo, sì? Di sottoporre ai nostri ascoltatori tre prove. Cioè, testiamo tre funzioni mentali per sì? vedere qual è lo stato di efficienza. Dai, questo mi piace. Allora, andiamo. Noi siamo pronti. È un po' come la visita che facciamo quando entriamo in palestra. Esattamente. Il personal trainer valuta un po' la nostra condizione fisica. Esatto. Ok. Facciamolo con una cosa molto semplice. Sì. Ecco, una delle lamentele che mi viene rivolta di più è: non ricordo che cosa ho mangiato ieri. Bene, allora facciamolo in questo modo. Sì. Io suggerirei agli ascoltatori di scrivere tutto ciò che hanno mangiato ieri a pranzo e a cena, ma è una cosa importante prendere il tempo, perché su questo poi noi daremo una valutazione. Quindi occhio all'orologio, foglio, una biro, ricordate quello che avete mangiato a pranzo e a cena, lo scrivete su un foglio, ma occhio a quanto tempo ci mettete. Sì, e scrivete poi il tempo impiegato, così poi vi do il riscontro. Bene, perché facciamo una valutazione. Sì, e nello specifico sulla memoria episodica. Poi andiamo a testare un'altra funzione, che è la memoria di lavoro. È una memoria molto veloce che sparisce subito, ma è fondamentale per tutte le attività che facciamo. Ad esempio, se dobbiamo fare una telefonata, sì, memorizziamo il numero, componiamo, ma poi sappiamo che dopo la telefonata lo perdiamo. Ecco, è importante che questa memoria di lavoro abbia uno spazio adeguato e sufficiente. E io lo testerei facendo in questo modo. Sì, vedo che già affila gli artiglietti. Sì. Allora, lo facciamo in questo modo. Io leggerò 7 numeri di seguito. Al mio via, sì, gli ascoltatori dovranno scrivere i numeri nell'esatta sequenza in cui io li ho detti. Sì. Va bene. Ecco, la precisione in questa scrittura stabilisce poi un punteggio successivo. Ok. Quindi non ci vuole il tempo, bisogna scrivere esatto la sequenza dei numeri che lei adesso ci darà. Perfetto. Pronti? Pronti. Affiliamo i neuroni. Ok. Via. Via. 1, 8, 5, 3, 6, 4, 9, 2. Via, scrivete. Io mi sono persa a metà, forse non ero abbastanza attenta, però provo anch'io. E siamo a posto? Basta questo o esageriamo? Esageriamo? Dai, dopo i numeri, il linguaggio. Il linguaggio. Certo, sa va san dir. Non può mancare, non può mancare. E facciamolo per verificare qual è lo stato di efficienza del piglio, cioè del meccanismo che prende le parole quando ci servono, va bene, ed evita quel fastidioso fenomeno della parola sulla punta della lingua. Il piglio. Facciamolo in questo modo. Sì. Sempre col tempo, sì, questa volta, in un minuto. Scrivere tutte le parole che ci vengono in mente che iniziano con la lettera M. M di mamma. Ma, esatto. Diamo il via. Via, un minuto di tempo, quindi prendete occhio all'orologio per la memoria episodica, l'esercizio, il test che ci ha suggerito il professor Iannoccari, che cosa avete mangiato ieri a pranzo e a cena, scrivetelo con il tempo La sequenza di numeri ci ha sottoposto alla memoria di lavoro. Esatto. E quindi dobbiamo riproporre la sequenza nell'ordine che lei ha seguito. E poi questa del linguaggio, il piglio, mi piace. Piglio. Naturalmente oggi ci alleneremo, ma parleremo anche dei fattori che svolgono un'azione protettiva nel nostro cervello, gli amici del nostro cervello, e vi daremo anche tanti consigli. Ma vorremmo sapere anche da voi che cosa fate per mantenere il vostro cervello in forma. E per contro, se negli ultimi tempi vi è capitato di pensare che il vostro cervello stesse perdendo un po' i colpi, un vuoto di memoria, la difficoltà a concentrarvi, a ricordare eventi, parole, nomi, il testo di una canzone, perché dopo aver individuato la funzione cognitiva che in questo momento vi sembra essere un po' in difficoltà, il professor Iannoccari vi suggerirà come rimetterla in forma. 800 24 00 24. Naturalmente potete seguirci su Facebook e su Twitter, professor Iannoccari, io ho chiacchierato, per dare il tempo anche ai nostri ascoltatori di intervenire e eventualmente di darci il tempo, in quanto tempo hanno eseguito l'esercizio che lei ha suggerito. Ma intanto andiamo alla memoria episodica. Qual era il tempo esatto per scrivere? Se abbiamo impiegato meno di 30 secondi per scrivere esattamente cosa abbiamo mangiato a pranzo e a cena, sì, la nostra memoria episodica è ottima, conserva bene le informazioni. Se abbiamo impiegato più di 30 secondi, fra i 30 e i 40, allora è buona. Sopra i 50 secondi direi che va allenata. E noi potremmo aiutarla a fare. Possiamo aiutarla a fare, certo. Possiamo anche provare ogni giorno a ricordare cosa abbiamo mangiato il giorno precedente prendendo il tempo. Magari col tempo miglioreremo. Perfetto, andiamo alla memoria di lavoro, a quella sequenza di numeri. Chissà se qualche nostro ascoltatore se le ha ricordate e le ha scritte in modo corretto. 800 24 00 24, non era questa, ma... Professor Iannoccari. Vuole che le rileggo, sì, i numeri? Così diamo la verifica ai nostri ascoltatori. 1, 8, 5, 3, 6, 4, 9, 2. Se sono stati scritti correttamente, la memoria di lavoro è formidabile. Se sono stati scritti 7 numeri, è ancora buona. Se qualche numero è stato invertito, bisogna sottrarre un punto. Fino a 6 la memoria è sufficientemente adeguata, da 5 in giù bisogna allenarla. Chi se li è persi, che è arrivato come me al terzo numero e poi sentendo gli altri è andato un po' in confusione, ha un problema serio. No! Andiamo al linguaggio. Lei parlava di plasticità, ecco, questa è la buona notizia, possiamo allenarla, nulla è perso. Bene, per il linguaggio, se in un minuto abbiamo scritto più di 20 parole, il nostro piglio, la nostra capacità di, sì, prendere le parole è in ottima forma. Tra 15 e 20 è buona, da 10 a 15 è sufficiente, sì, al di sotto dobbiamo lavorare anche su questo. E quindi noi lavoreremo. 800 24 00 24, se volete allenarvi con voi, con noi, fatevi avanti. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella bassa. Anche il nostro cervello ha una destra e una sinistra, professor Iannoccari, e ciascuna parte, o meglio emisfero, ha le sue competenze. Sì, i nostri emisferi hanno delle competenze che si sono distinte nel corso dell'evoluzione. Classicamente distinguiamo quello di sinistra come più razionale, quindi quello che è deputato alle abilità di linguaggio, di ragionamento, sì, di calcolo. Quello di destra invece più introspettivo, più dedicato alla creatività, all'immaginazione. La migliore soluzione è farli lavorare insieme. Quando questo riesce, il nostro cervello ha un ottimo rendimento. È al top. È al top. È come direbbe Crozza, destra e sinistra, però qualcosa non mi torna. Come funzionano nei mancini, il loro cervello intendo? In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Anche lei come me mancino? Sì. Quindi siamo spudoratamente di parte, magnifico. Sì, siamo una maggioranza, vinceremo le elezioni, no? Insomma, forse no. Siamo solo il 10%, vuol dire 6 milioni in Italia. È probabile che l'Homo sapiens 200.000 anni fa non avesse una distinzione emisferica, come diceva il collega. In realtà questa separazione di carriere è avvenuta per la comparsa di una mutazione, il cosiddetto all'LD, circa 30.000 anni fa. In realtà è abbastanza singolare, e questo ce lo dicono gli etologi, gli studiosi del comportamento animale, sapere che il mancinismo negli animali è molto diffuso. Non chiedetemi come, ma è dimostrato che il 90% dei pappagalli è mancino, il 50% dei topi è mancino o ambidestro e il 30% degli scimpanzé. Cosa vuol dire da un punto di vista così del successo o dell'insuccesso essere mancini? Sapete bene che una volta venivano corretti, né io né lei di corretta lo siamo stati. Forse perché siamo molto giovani. È vero, quella. E aspettavo, credo che sia una pietosa bugia. Aspettavo questo da lei. Siamo giovanili. Allora, in realtà ci sono delle dimostrazioni statistiche ed epidemiologiche che i mancini possono avere alcuni vantaggi. Per esempio, negli sport sono superiori non per la cosa solita al tennista che mette in imbarazzo il destrimane, ma per una maggiore carica agonistica. Gli americani dimostrano che i mancini hanno una maggiore capacità di guadagno se di elevato livello culturale, tendono fisicamente, sono studi epidemiologici molto singolari, ad essere meno alti ma più magri, hanno una maggiore velocità psicomotoria e più flessibilità cognitive. Qual è lo svantaggio? Sono più esposti a traumi cranici e quindi a incidenti stradali, si dice questo sia legato ad una sorta di distraibilità e creatività, ma non è assolutamente vero quanto veniva paventato che vivano meno. Io lo vorrei ben sperare. Speriamolo, professore, ma è vero anche che a un mancino può capitare di comportarsi come un destriman, ad esempio. Ci sono mancini che a pallone tirano col destro. Sì, è vero, se io potessi chiamare tiro al pallone quello che pietosamente faccio, sono un esempio di mancino che tira col destro. E in realtà c'è da dire che la espressione del essere mancini o destrimani è possibile farla dopo il primo anno di vita, ma chi sia in ascolto e non sa bene se è mancino o non mancino può fare un test, quello di prendere la mira o di guardare dal buco della serratura. Quella è una prova che viene considerata molto sensibile, e cioè il mancino ammicchierà, cioè chiuderà l'occhio destro per guardare col sinistro e viceversa il destriman. C'è però un'altra cosa interessante, non si finisce mai di stupire. Sono stati studiati addirittura i feti mediante ecografia, sì, per capire predittivamente se il feto sarà, se il nascituro sarà mancino destro. Ebbene, i 2/3 dei feti che nel terzo trimestre di gravidanza, di gestazione, giacciono sul proprio lato destro, saranno più verosimilmente mancini perché remeranno nel liquido amniotico maggiormente col braccio di sinistra, come uno che vada sul moscone e remi in maniera simmetrica. Carini. Ma non è tutto. Non è tutto, c'è uno che è ancora più singolare, e cioè è dimostrato che mentre tutti i feti che succhiano il pollice destro diventeranno destrimani, così non è se invece succhiano il pollice sinistro. E cioè, una regoletta: se il feto succhia il pollice destro è destrimane, se succhia quello sinistro potrebbe essere mancino. Quindi un pollice e una mano possono già aiutarci in epoca prenatale a dire come sarà il nostro nipotino, il nostro figliolo. Grazie professor Barbanti, la ringrazio davvero per essere stato con noi. Arrivano molti messaggi di mancini, quindi salutiamo. Arrivederci a tutti voi. Grazie, buona giornata. Abbiamo Milena da Lodi, Gianfranco da Pescara, Daniele da Milano. Buongiorno a voi. Milena. Buongiorno. Milena? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Volevo fare una domanda. Io vabbè, sono perennemente senza memoria. Lascio in giro tutto, però ho notato, e mi faceva notare anche negli anni la mia nonnina, che adesso vabbè non c'è più, che mi ricordo solo le cose se le metto su come versione cantata, sì, come canzone, oppure mi ricordo solo generalmente quelle che mi fanno piacere, quelle meno non me le ricordo. Allora, quindi Milena ci dà un suggerimento: se la memoria vacilla, cantate, no? Sì, anche perché in questo caso si avvale della cosiddetta prosodia, quindi quella capacità di canticchiare quando parliamo, che è un ottimo aiuto per la memorizzazione. Infatti molte pubblicità dei numeri utili utilizzano i jingle per proporci il numero da ricordare, perché rimane in mente. Ecco, anche gli aspetti positivi di cui parlava Milena riguarda il fatto che l'emotività ha un ruolo nella memorizzazione. Assolutamente. Per cui in questo caso, ecco, ed è anche caratteristico il fatto che ricordi meglio i fatti positivi piuttosto che negativi. Gianfranco da Pescara, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gianfranco, lei ha fatto i test del professor Iannoccari? Io ho una particolare capacità di ricordare i numeri piuttosto che le lettere. E allora riesco a ricordarmi tutti i numeri di targa che amo trattenere. Quando ero giovane non entravo in discoteca, quindi non affrontavo il buttafuori, ma mi bastava vedere le macchine che erano fuori per sapere chi era dentro, che mi interessava. La stessa capacità però naturale, io non l'ho per le lettere, per i nomi. I nomi li sbaglio molto spesso. Vabbè, meno male Gianfranco, se no a tutto lei, professor Iannoccari. Già Gianfranco si ricorda tutti i numeri, le targhe, sapeva dalla targa individuare se c'era la ragazza nella discoteca, le lettere gli scappano un po'. Che cosa vuol dire? Direi che fa invidia a molti, soprattutto con i numeri. Significa che la sua memoria per i numeri funziona benissimo. Noi sappiamo che le memorie sono tante, sono almeno più di una dozzina sicuramente. Ciascuna funziona più o meno bene in ciascuno di noi, quindi il fatto che ci sia una maggiore capacità di ricordare i numeri e meno delle lettere è compatibile con quella che è la fisiologia della memoria. Daniela da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io ho fatto il test. Brava Daniela, mi piace, com'è andata? E vanno benissimo tutti i risultati, peccato che per emotività poi mi vengono dei vuoti di memoria e faccio delle figuracce normalmente. Comunque, la mia domanda è un'altra. Come possiamo aiutare un ragazzino di 11 anni che in prima media si trova in difficoltà a ricordare le nozioni? Grande capacità e comprensione, ma ricordare la nozione di matematica o di grammatica ci vuole un sacco di tempo. Sì, intanto mi domanderei se viene proposta nel modo giusto, cioè nel suo linguaggio, perché è molto importante che l'istruzione segua l'apprendimento, le capacità di apprendimento. Fatto questo, l'utilità è quello di procedere per piccoli passi, quindi una formula di matematica va appresa per piccoli obiettivi e poi messa insieme in termini generali. Fatto questo, procedimento va ripetuta finché non diventa proprio una memoria procedurale, cioè la capacità di farlo senza doverci ragionare troppo. E questo funziona anche per imparare, non so, la storia, la geografia, cioè è un metodo che possiamo applicare a varie materie. Sì, poi quindi sempre tutto a pezzettini? Fatto a pezzettini, ecco, poi visto che stiamo parlando di età evolutiva, dobbiamo tener conto che i nostri giovani sono diversi rispetto a come lo eravamo noi nella fase di apprendimento, per cui vanno stimolati diversamente. Ad esempio può essere molto utile fargli fare la scenografia, per esempio, della storia. No? Cioè sì. Fargli proprio immaginare, quindi utilizzare le immagini mentali per apprendere le nozioni, oppure anche le mappe mentali. Ecco, bisogna capire quale memoria utilizza più facilmente. Esatto. Quindi se si lega di più alle immagini, agli schemi, sì, alle sottolineature, oppure come a ripetere più volte più lo volte. Stesso concetto fino a quando si metabolizza ed entra. In linea con noi voglio salutare Carlo Chericoni, direttore di T3, la rivista di tecnologia. Ciao Carlo. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Perché? Perché noi vogliamo parlare del gioco del momento, di cui tutti parlano, ma soprattutto con cui tutti giocano. È l'applicazione fatta di lettere, una specie di versione digitale del paroliere. Carlo. Sì, Razzle. Il gioco del momento. Ma affascina, appassiona, lo scaricano tutti, ci giocano tutti? Sì, in questo momento... Come funziona? Allora, il gioco è molto semplice, c'è una griglia con delle lettere, sì, e bisogna tracciare con il dito delle parole, bisogna unirle tracciando col dito per formare delle parole. Si hanno 2 minuti di tempo, e maggiori parole riusciamo a formare e più alto sarà il nostro punteggio finale. Senti Carlo, tu che sei un esperto, qual è il segreto di questa... successo? Il primo elemento del successo di Razzle è il fatto che sfidiamo delle altre persone, quindi stimola la nostra competizione. Senza dubbio c'è anche da dire che i giochi di parole sono un qualche cosa che affascina in modo trasversale, perché anche i giochi di enigmistica, le parole crociate, conosciamo benissimo, sono qualche cosa che da sempre hanno un grande successo per qualsiasi fascia d'età. E la terza cosa di grande efficacia che c'ha Razzle è che permette di sfidare gli amici in modo asincrono, cioè ognuno può compiere la sua mossa quando ha 2 minuti di tempo, durante la pausa caffè, quando sta in fila alla posta, in qualsiasi momento. Quindi ti tiene uncinato, ma anche con il guinzaglio lungo, libero. Esattamente, esattamente. Tu, Carlo, ci giochi? Io ci gioco e devo dire non sono bravissimo, però sto migliorando. Io ho provato a giocare con Laura Vanossi, devo dire che le abbiamo sfidate 2-1 e siamo abbastanza schiappe, per cui vogliamo allenarci. Carlo, magari giochiamo insieme, dai. Volentieri. Grazie a Carlo Chericoni, direttore di Tre, la rivista di tecnologia. Professor Iannoccari, cattura la mente, uncina e allena. Allora, vogliamo allenarci anche noi proponendo ai nostri ascoltatori una specie di Razzle radiofonico? Volentieri. Prima dei mercati, che cosa? Attenzione, ecco che cosa dovete fare, rapidamente. Allora, io chiedo in prestito il suo nominativo, Nicoletta Carbone, sì. È composto da 16 lettere. Magnifico. Fantastico. Come Razzle, come... un Carbon Razzle. E utilizziamo quindi le lettere di Nicoletta Carbone per comporre il maggior numero di parole possibile. Essere e benessere. Ricordi che noi una notte non riuscivamo a dormire, noi trovavamo il film, il posto delle fragole sul via Cava, restammo tutta la notte a guardarlo, lo ricordi? Fu una cosa fantastica. Sì. Quello fu uno dei grandi momenti. Oh, quando stavamo andando alla cena di facoltà e non me lo scorderò mai, noi nella quinta strada con quella notte buia e gelata si camminava in centro. E ti ricordi che all'improvviso decidemmo di non andare alla cena e dicemmo al diavolo, e noi, era una notte così bella, siamo entrati nel Central Park e ricordi, era così innevato quella notte, il cielo si contavano le stelle, tu eri talmente bella con quel vestito nero, davvero carino, il grande Woody. Intanto voi vi ricordate la sfida di oggi a proposito di memoria? Questa è la memoria, altro che episodica, memoria, no? Quanto, come la chiamiamo? Mini episodica, l'abbiamo detto prima, stiamo lavorando su un programma di allenamento per il nostro cervello. Vi invito, anzi vi dico già, perché me lo state chiedendo, che questa sorta di autovalutazione suggerita dal professor Iannoccari, che molti mi dicono l'ho persa, l'ho sentita, il nome, la rimetteremo sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina del programma, per cui valutate, vi metteremo anche le soluzioni, quindi ci facciamo un po' un quadro generale. Ma parlavamo del gioco del momento, questo Razzle, che piace molto, noi siamo abbastanza schiappe, ma ci alleneremo magari proprio con i suoi consigli, professore. Dicevamo, un gioco che allena sicuramente delle funzioni cognitive, oltre che a divertirci. Quali in particolare? Sono diverse funzioni cognitive. Abbiamo la stimolazione del linguaggio, sì? Della pianificazione, sì? Della concentrazione, della velocità di elaborazione e anche della memoria, perché non bisogna ripetere le parole già scritte. Certo. Quindi abbiamo tanti distretti cerebrali che vengono stimolati con questa ginnastica. Poi, tra l'altro, noi abbiamo notato, siccome facciamo da tempo degli esercizi tipo Razzle, che col tempo le persone si abituano a fare questo tipo di procedimento e diventano sempre più abili, per cui è straordinario in quanto si può allenare e si può diventare sempre più veloce e sfidare gli amici. E noi abbiamo proposto un Razzle radiofonico, perché vogliamo allenarci anche noi, anche le persone che magari non hanno lo smartphone e quindi non possono giocare, proponendo... Lei si è fatta dare il mio nome, Nicoletta Carbone, che combinazione ha 16 lettere, proprio quelle su cui lavora Razzle. Ma come dobbiamo organizzarci? Dobbiamo prendere le lettere che compongono il nominativo e anagrammarle, cioè e rimescolarle in modo tale da ottenere delle nuove parole. Ad esempio, utilizzando B-O-N-T-A esce fuori bontà, o caletta, o tante altre parole. Posso riprendere la lettera o no? No, però siamo però fortunati. Nicoletta è è fortunata. Siamo fortunati perché abbiamo tre parole che si tre lettere che si ripetono, che sono la A, la N, la E, per cui abbiamo la possibilità di fare parole. Anna da Terni, mi dicono dalla redazione che è pronta subito con le parole. Anna, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Quante ne ha trovate, Anna? Ne ho trovate 8, ma ho smesso prestissimo perché avevo tante altre cose da fare. Mi avete colto proprio nelle. Se nel no, mio, quindi, nella mia, nel si è lasciato uncinare. Perché io sono un'appassionata di settimana enigmistica. E allora stiamo parlando con una. Degli anagrammi cerco di farli sempre, mi affascinano. Ho sempre delle preferenze proprio per gli anagrammi. E quindi mi sono messa un attimo, ma avevo la pentola. Quindi, ho scritto 8 parole, ma ne troverai anche altre, ma non perché mi senta brava, ma perché sono allenata a questo tipo di... Brava, vede, Anna dice, si dà già la risposta. Mi dice le 8 parole, perché allora, mi piace. Allora, ho trovato brace, traccia, sì. Conica, attore, sì. Barca, sì. Attico, sì. Cielo, sì. Caletta. Brava. No, è stata giusta anche se ci sono due parole che iniziano per la B? Sì, sì, sì, va. Ok, vale. Brava Anna, bravissima. Allora, intanto vi proponiamo, dato che è molto appassionante anche sfidare un avversario, molto sconosciuto. Grazie Anna, complimenti. Se volete, segnalatelo al nostro centralino e con Nicoletta Carbone, il professore Iannocca ritesterà proprio tutte queste vostre competenze, dandovi naturalmente il tempo. Ma che un rumore, che un odore, già sentito o respirato un tempo, lo sia nuovamente, insieme nel presente e nel passato, reali senza essere attuali, ideali senza essere astratti. Immediatamente l'essenza permanente e abitualmente nascosta delle cose si trova liberata e il nostro vero io, che talvolta da molto tempo sembrava morto, ma che non lo era interamente, si sveglia, si anima ricevendo il cibo che gli viene dato. Marcel Proust. Professor Iannoccari, non potevamo perdercelo, e a proposito, a volte basta proprio un profumo a risvegliare un ricordo, ma la cosa bella è che, come per magia, immediatamente anche gli altri ricordi relativi ad altri sensi tornano a galla, un ripescaggio, vero? Sì. Quindi meglio approfittare di questa occasione. Assolutamente. Noi immaginiamo e pensiamo cosa fanno i bambini quando hanno un oggetto tra le mani. Lo muovono, lo toccano, lo annusano, lo assaggiano, sì. Sentono se fa rumore. Utilizzano tutti i loro sensi per memorizzare il nuovo oggetto. È fondamentale non limitarsi ad uno. Poi se parliamo dei profumi, degli odori, questo è straordinario perché sono capaci di risvegliare ricordi antichi anche di decenni. E questo perché? Perché come senso è l'unico che ha un collegamento diretto tra le cellule recettive, che sono poste nella cavità nasale, e il nostro cervello. Quindi c'è un collegamento diretto, naso e cervello. Sì, esatto. E va proprio a finire nel sistema limbico, quello deputato alle emozioni. Qual è il senso della vostra memoria, quello che vi aiuta a ricordare e a ripescare i ricordi? 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Ciro Vestita. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi, eccoci. A proposito di naso e di olfatto, il professor Iannoccari sottolineava che il senso che riattiva, ripesca i ricordi ha un collegamento molto stretto, direi straordinario con il nostro cervello, e noi lo possiamo utilizzare anche annusando il sapore, l'odore di alcune spezie che, aggiunte ai nostri piatti, aiutano il cervello a mantenersi sano. È vero, professore? Beh, guardi, sulle spezie c'è dell'incredibile. Io a 40 anni faccio questo mestiere, arrivano dei lavori veramente che hanno qualcosa di pazzesco, ad esempio il curry, la curcuma. Beh, noi sappiamo ad esempio che queste spezie svolgono una grandissima profilassi nei confronti di tanti tipi di tumore. Basti pensare che lì dove il curry, quindi la curcuma, viene usata in maniera costante, il tumore alla prostata si abbatte dal 12% nel mondo occidentale al 2%. Ma ad non esempio, solo alla prostata, dottor Vestita, che so che è un tasto molto delicato per voi uomini, perché mi arriva sempre il messaggino: allora, quando fa la puntata sulla prostata? Ma chissà, può darsi dopo. Professore Vestita, noi parleremo però di queste spezie perché fanno bene al nostro cervello e anche alla prostata, state tranquilli. Essere e benessere. Professor Vestita. Professore? Sì, ci sono. Eccolo. Presente. Sì. Tra l'altro il professore, ve lo ricordo, ma è di casa, è medico e dietologo all'Università di Pisa. Professore. Eccoci, dunque, accennavo appunto sulla curcuma e sul curry, sono spezie utilissime per il cervello, per il sistema nervoso. Il problema è che la gente non la sa usare. Bravo. La curcuma da sola purtroppo serve a poco. La curcuma è una polvere gialla. Molti studi ci dimostrano però che senza la piperina presente nel pepe nero la curcuma quasi non funziona in nessuna delle sue attività. E infatti gli indonesiani, cioè il mondo orientale, da millenni usa il curry, non usa la curcuma da sola. Il curry è un mix dove c'è il 60% di curcuma, poi c'è pepe nero, anice, salvia, eccetera. Bene, in questa maniera noi abbiamo dei lavori che producono praticamente questo. Usare curry in maniera continua vuol dire abbattere un pochino le percentuali di poter sviluppare la malattia di Alzheimer, migliorare la malattia stessa di Alzheimer nelle fasi iniziali, inibire le placche a livello appunto del sistema nervoso della sclerosi multipla e soprattutto migliorare moltissimo tutto il sistema vascolare inerente appunto al cervello e alle zone limitrofe. In soldoni, se uno usa il curry in maniera regolare probabilmente tanti fastidi non ce l'ha. Come usare il curry però? Ecco, diciamo questo, il curry si può usare nelle zuppe, nelle minestre, sulla pasta asciutta, negli arrosti, e questo tutto lo sappiamo. Però non si deve fare cuocere molto, si aggiunge all'ultimo, no, vero, esatto, prof? Esatto, per però dare un pochino, siccome sono i bambini che devono abituarsi a questo tipo appunto di aroma molto forte, eccetera, è utile quando la pasta ha finito la sua bollitura, ad esempio il risotto, aggiungere nell'ultimissima fase della cottura un pochino di curry, perché dà un colore rosa talmente invitante ai ragazzi che poi lo mangiano molto più volentieri, perché il riso si colora. Se noi iniziamo nella fase pediatrica a dare queste spezie, beh, probabilmente noi avremo un grande successo in età adulta, perché lì dove il curry è usato veramente bene, queste patologie di cui parlavo sono molto meno presenti. E questo perché? Perché il curry e quindi la curcuma eccetera fanno veramente bene. Sono degli antiossidanti. Sono degli antiossidanti, sono ricchissimi in polifenoli e sono soprattutto utili anche paradossalmente contro le malattie da raffreddamento. Certo. Però siccome è del cervello che parliamo, io dico, chi ha problematiche di questo tipo si affacci volentieri a queste spezie, perché fanno veramente dei miracoli. Professore, ci sono anche delle ricerche sul ginkgo, vero? Ecco, il ginkgo, perché qui parliamo, prima di parlare dell'alimentazione, se poi andiamo sulla fitoterapia stretta, c'è questa pianta, il ginkgo biloba, che ha dell'incredibile, innanzitutto un lavoro recentissimo fatto proprio da noi al Sant'Anna in questi giorni, sull'importanza dell'acido butirrico presente praticamente nel ginkgo biloba e paradossalmente nel burro irrancidito per proteggere le cellule cardiache, ma il ginkgo è l'unica pianta medicale utile nelle patologie appunto del sistema nervoso centrale, contro la malattia d'Alzheimer, contro la sclerosi multipla e soprattutto per migliorare quella memoria che spesso noi perdiamo, perché invecchiando la corteccia cerebrale invecchia anch'essa. Perché non ci alleniamo tanto, vero professore? Ma noi oggi ci alleneremo, se vuole fermarsi anche lei a fare qualche esercizietto. Volentieri, volentieri. Che dicevo, la ginkgo biloba, la presenza di questi ginkoleni o ginkolidi può essere veramente utile in queste patologie, quindi se il ginkgo viene usato in maniera corretta si può fare molto. L'unica differenza fra il curry, che è un alimento, e il ginkgo è che il ginkgo, essendo una pianta medicale molto delicata con notevoli effetti collaterali, va sempre usato sotto controllo medico. Assolutamente. Professore, grazie per essere stato con noi. Giovanna dalla provincia di Lodi, Andrea dalla provincia di Teramo. Buongiorno Giovanna. Buongiorno Nicoletta. Com'è andata? È andata, secondo me è andata benissimo, poi mi sono divertita tantissimo a scrivere. Questa è bella. I nomi con il suo nome. Io sono arrivata a 16. Allora, professor Iannoccari, ci vuole anche il tempo. Ci dice anche il tempo, Giovanna? Allora, il tempo delle fino alle notizie, finito le comunicazioni della borsa. Quello è stato il mio tempo. Vabbè. Appena finita la borsa io ho smesso. E sono arrivata a 14. Dopo, quando mi ha telefonato, ne ho aggiunto ancora due. Ha barato un po', ha fatto bene, ha fatto bene Giovanna. Allora, ci orientiamo su questi 16, Giovanna ne ha aggiunte anche due, quindi... Sì. Ma più o meno, come possiamo utilizzare questo nostro esercizio per valutare anche quanto siamo veloci, quanto siamo allenati? Perché suggeriamo questo esercizio un po' per divertirci, ma essendo un programma di benessere vogliamo anche ricavare qualche utilità per il nostro benessere, quindi un allenamento. Ci dica... Sì, questo tipo di esercizi va benissimo per esempio anche per la flessibilità mentale, va bene, man mano che produciamo le parole ci rendiamo conto che diventiamo sempre più abili. Perché? Perché gli schemi che noi utilizziamo per prendere le parole, per pianificare le lettere in modo da estrarre delle parole, migliora col tempo, per cui la nostra ascoltatrice ha fatto 16 parole, sono sicuro che se continua può arrivare a 20, poi ecco, a 25. Quindi prendete il tempo, questo è un po' l'esercizio. Sì, adesso la nostra amica Giovanna ha fatto 16 parole e non ha guardato bene il tempo, ha detto i mercati, comunque un tempo abbastanza rapido. Dovrebbe continuare, può anche cambiare nome, però se tiene il mio Giovanna mi fa piacere, continuare a farle. Poi abbiamo un suggerimento in più, vero? Sì, che è quello di costruire delle frasi di senso compiuto con le lettere del nominativo, per cui si possono costruire anche delle frasi utilizzando queste lettere. E dedicare a questo esercizio almeno 2 minuti al giorno? Sì, lo possiamo fare, come diceva l'ascoltatore di prima, anche più volte al giorno, quando siamo in fila al supermercato, piuttosto che quando siamo in auto, quando abbiamo un attimo di pausa possiamo farlo, va benissimo. Quindi, però stiamo sempre con il numero 16? Sì, come il numero 16 può essere insegna Razzolo, insomma Nicoletta Carbone va perfetto. Andrea perfetto. Dalla provincia di Teramo, vediamo quanto ha fatto. Buongiorno Andrea. Salve, buongiorno. Buongiorno. Io ho fatto 22 parole. In quanto tempo? Praticamente da quando è partito il gioco fino a... Dopo mi sono fermato perché sono al lavoro, sinceramente. Quindi diciamo fino a quando ho mandato la pubblicità, penso. Però la cosa importante, Andrea, bravo che ha provato, adesso ci proverò anch'io appena esco dalla diretta, ma come sottolineava il professor Iannoccari, se vogliamo allenarci con questo esercizio, possiamo poi suggerirvene altri, è di prendere il tempo, se no non si capisce quanto si migliora, esatto, è vero professore? Esatto, sì, è proprio come la corsa, noi sappiamo in base al tempo come miglioriamo, e poi il tempo ci aiuta a stressarci positivamente, quindi ad attivare al meglio le nostre capacità, perché serve anche questo. Se siamo troppo rilassati, le nostre funzioni cognitive non funzionano al meglio. Per questo è importante magari sfidare un avversario. Quindi, che è la regola vincente del gioco. Ivano da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Volevo offrire il mio contributo alla trasmissione perché la trovo molto interessante. Grazie. Volevo dire che io personalmente ho delle difficoltà anche importanti a ricordare i nomi delle persone che mi vengono presentate. Molto spesso mi accade anche di fare delle pessime figure, nel senso che dopo un giorno, due giorni, quando appunto si fanno delle conoscenze, non ricordo i nomi delle persone che ho conosciuto alcuni giorni prima. Sì. E questo peraltro è in contrasto, perché poi conservo una buona memoria anche per i fatti storici, per delle studiate anche al liceo. Sì, e come mai i nomi? Ma Ivano, il professor Iannoccari ha una specie di regoletto, un suggerimento, che se seguito alla lettera, a proposito, ci fa ricordare perfettamente i nomi. L'ho provato anch'io. Sì, intanto diciamo che i nomi e le persone sono due memorie diverse, per cui noi ricordiamo facilmente Paolo, Nicoletta, Giuseppe, eccetera, perché sono nomi noti. Associarle alle persone, quella è la cosa difficile. Sì. Io propongo di fare una cosa molto semplice per allenare questa funzione, quello di scrivere i nomi a fine giornata, scrivere i nomi delle persone che abbiamo incontrato. In questo modo aiutiamo a memorizzarlo meglio. Poi possiamo associare ad ogni nome anche un'immagine. Paolo può diventare Paolo, Jessica può diventare Gesso e così via. Possiamo inventare noi delle immagini che ci aiutano poi a memorizzare meglio. E nel momento in cui ci presentano una persona nuova, ripetere il suo nome. Sì, non diventa un tormentone, perché sennò l'altra dice ma chi, cosa sta facendo questo qua? Tre volte. Sì. È una, possiamo dire, che piacere Paola. Perfetto. Poi le altre due ce le ripetiamo in silenzio, sì, dentro di noi, e così il nome e la persona archiviate. Perfetto. Professor Iannoccari, grazie per essere stato con noi. Grazie. Adesso vado ad allenarmi piacere con Nicoletta Carbone. Noi naturalmente metteremo gli esercizi del professor Iannoccari sulla nostra pagina. Carmelo, siamo in tempo. Grazie per, come sempre, a Carmelo Lauricella, a Laura Vanossi. Vi prego, scaricatemi. Essere e benessere.